in primo piano. Buongiorno, buon lunedì di Pasqua da Giulia Crivelli. Direte, cosa ci faccio qui io stamattina, visto che non ci sono i giornali? Abbiamo scelto comunque di darvi uno sguardo un po' naturalmente ai siti dei quotidiani che vengono costantemente aggiornati. Poi le notizie le potete naturalmente sentire oggi con i GR di Radio 24. E poi abbiamo ripreso un po' degli articoli che erano sfuggiti nei giorni scorsi e anche un piccolo sguardo all'estero. Quindi vi segnalo il sito del Sole 24 Ore, come spesso ricordo anche nei giorni di agosto, per esempio, questa anomalia del fatto che i giornalisti della carta stampata il giorno di Pasqua non lavorano, però lavorano tutti gli altri, quelli naturalmente della televisione e della radio, lo sapete benissimo, e anche chi lavora ai siti. E quindi il sito del Sole 24 Ore naturalmente è aggiornato con i dati che avete sentito anche nel GR, con le notizie economiche, in particolare queste che riguardano il petrolio. E poi naturalmente sulla stampa, sul Corriere, sulla Repubblica trovate anche tanti fatti di cronaca, tutti i furbetti così chiamati. Detesto questa definizione per chi viola le leggi, ma comunque insomma sappiamo che in Italia per furbetti intendiamo le persone che in qualche modo cercano di aggirare leggi e regolamenti, quindi i furbetti di Pasqua, per esempio le persone che hanno organizzato una grigliata sui tetti di Palermo senza alcun rispetto delle distanze che dovremmo tutti rispettare, oppure una chiesa che era piena a Salerno. Vi segnalo poi, avete sentito, il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale, dal St. Thomas, un ospedale di Londra non lontano dalla sua residenza di Downing Street, al 10, in realtà all'inizio della quarantena lui l'aveva trascorso all'11, che è l'appartamento vicino, proprio per evitare appunto di stare in un ambiente che magari poteva essere contaminato o che lui stesso poteva aver contaminato. In ogni caso è stato dimesso. Il Daily Mail titola "Could have gone either way", è un virgolettato di questa conferenza stampa, o meglio del video girato dalla sua residenza di campagna, cioè avrebbe potuto andare in un altro modo, nel senso che Boris Johnson ha detto: ho comunque rischiato di morire, e ringrazio naturalmente tutte le persone, i medici, infermieri che si sono presi cura di me. Le Figaro ha una foto in prima pagina che è quella di Papa Francesco, che ieri ha celebrato questa messa da solo, e naturalmente ha fatto queste foto hanno fatto il giro del mondo, così come hanno fatto il giro del mondo le foto di Papa Francesco da solo in Piazza San Pietro. E poi il titolo principale di Le Figaro è dedicato agli Stati Uniti per più di una ragione: l'acuirsi dei dati e della gravità della pandemia in tutti gli Stati Uniti. Ora tutti e 50 hanno dichiarato lo stato di emergenza, anche se in alcuni stati sono 5 al momento, non c'è un vero e proprio lockdown. E poi ci sono le dichiarazioni di Donald Trump, da una parte l'annuncio di questo accordo per il quale lui ha molto premuto, per appunto ridurre la quantità, la produzione di petrolio, per far sì che il prezzo non scenda troppo, e poi il suo desiderio che per il 1° maggio gli Stati Uniti riaprano, se non altro dal punto di vista economico, con tutte le cautele del caso. Tra l'altro Anthony Fauci, l'epidemiologo, infettivologo, non epidemiologo, che ha lavorato con tantissime amministrazioni e sta lavorando anche con la task force messa in piedi da Donald Trump e guidata dal suo vicepresidente Mike Pence, ha anche a domanda anche risposto che per le elezioni di novembre lui personalmente non vuole esprimersi sulla fattibilità, perché Donald Trump è molto contrario, questo lo ha detto chiaramente, al voto via posta, e quindi bisogna vedere se per novembre si potranno aprire le urne. E siccome abbiamo la pausa sul traffico, ci fermiamo un attimo, poi vi racconto qualcosa dall'edizione weekend di Financial Times che è molto interessante. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. In primo piano. Ancora buon lunedì di Pasqua da Giulia Crivelli. Vi avevo promesso appunto la prima pagina dell'edizione weekend di Financial Times. Il titolo principale è sostanzialmente dedicato a questa decisione di tagliare la produzione di petrolio. Tra l'altro si ricorda, sicuramente questa sarà una vittoria per Donald Trump, che ha fatto pressing sia sull'Arabia Saudita sia sulla Russia perché finisse questa guerra sul petrolio tra questi due paesi. Ci sono i dati sul Brent per darvi un'idea di quanto fosse urgente trovare un accordo che tagliasse la produzione e quindi facesse risalire il prezzo. Pensate che appunto siamo tornati a $30 al barile, ma era sceso anche sotto, e in gennaio eravamo a $70 al barile. E poi c'è un altro risvolto, se vogliamo, economico, dell'economia di tutti i giorni, ci direbbe Anna Migliorati, che è quello delle scommesse, perché naturalmente con gli sport fermi, praticamente tutti, anche il business delle scommesse sportive è fermo. E allora Financial Times in prima pagina racconta che ci sono invece altre discipline meno note normalmente, che sicuramente normalmente non attirano le scommesse, che in questo momento invece appunto sono oggetto di scommesse. Per esempio il ping pong, dove effettivamente si può giocare a più di un metro e mezzo di distanza, e che appunto adesso è diventato una disciplina che, per esempio, per la società che viene citata qui su Financial Times, il svedese bookmaker ATG, ha avuto una... Ha mostrato un aumento del 465% di questo tipo di scommesse. E poi nell'edizione del weekend di Financial Times c'è sempre una sezione House and Home, dove ci sono anche tanti articoli di giardinaggio. Sapete quanto gli inglesi amino il giardinaggio, e qui c'è una celebrazione di Robin Lane Fox, che è stato per 50 anni il Guardian Editor, perché questo è, così come tanti altri giornali hanno il Watch Editor o il Fashion Editor, cioè giornalisti che si occupano appunto o di orologi o di moda, il Financial Times ha anche il Guardian Editor. Ha insegnato per 40 anni a Oxford, sempre giardinaggio, e viene chiamato l'apostolo dei fiori. Per restare nel Regno Unito, vi segnalo la copertina dell'Economist di questa settimana, che in realtà è in edicola da giovedì. C'è un'illustrazione in copertina, ed è un leopardo, un giaguaro, e al posto delle macchie ha tante sagome del coronavirus. Sapete che questo tipo di virus è chiamato così perché ha appunto delle piccole, come tutto intorno a sé, delle piccole decorazioni, quasi potremmo dirle, che appunto gli hanno valso il nome di coronavirus. Il titolo è The Business of Survival, cioè il business della sopravvivenza, perché come ormai sentiamo dire da tutti e in tutti i paesi, il tema adesso è la fase 2. Abbiamo detto, Donald Trump spera di riaprire tutto il 1 maggio, qui abbiamo capito che si andrà più avanti, soprattutto sarà tutto un po' scaglionato. Anche in Spagna ci sono possibili date, quindi il focus è quello. Interessante che uno degli articoli richiamati in prima pagina è una domanda, perché molte degli aspetti che riguardano questa epidemia in realtà finiscono con un punto di domanda, e quindi questa domanda è: should you wear a mask? È necessario indossare una mascherina? Sappiamo, per esempio, qui in Lombardia è obbligatoria per un'ordinanza del governatore Fontana. Non è l'unica regione, e l'Italia non è l'unico paese. Secondo l'analisi dell'Economist, che ovviamente viene fatta sentendo vari scienziati, sicuramente non fa male mai a nessuno tenere una mascherina di vario tipo. Sappiamo che sono sostanzialmente di tre tipi: quella altruista, cioè quella che protegge gli altri dagli eventuali germi che potremmo trasmettere noi, quella egoista, che non protegge gli altri perché ha dei filtri dai quali i nostri germi possono uscire, quindi protegge noi ma non protegge gli altri. E poi c'è la mascherina intelligente che appunto evita che i nostri germi siano nell'aria ed evitano anche che i germi che sono nell'aria arrivino a noi. Molto interessante anche questo special issue del New Scientist, che è un settimanale inglese dedicato, britannico, di divulgazione scientifica ma molto seria. Il focus naturalmente è sul coronavirus e, come vi dicevo, anche qui è pieno di punti interrogativi. Does viral load matter, cioè la carica virale, che significa per esempio gli operatori sanitari li vedete bardatissimi, sappiamo che ci mettono molto a prepararsi, non basta certo la mascherina per gli operatori sanitari che hanno a che fare con i pazienti COVID, perché sono esposti a molta carica virale, cioè non è come potrebbe accadere a me di incrociare per caso una persona magari asintomatica che è però positiva al virus. Gli operatori sanitari sono a contatto con questo virus molto più di noi. Ma è veramente per questo, per esempio, che si ammalano di più? Ripeto, c'è il punto interrogativo. Un altro punto interrogativo: should I wash my shopping? Devo lavare, devo disinfettare la mia spesa quando la porto a casa o quando arriva un pacco? E quindi uno speciale at home testing, quindi come fare i test a casa. El País ha una intervista in prima pagina al ministro dell'industria e del commercio, che è una donna, Reyes Maroto, del governo Sanchez, che dice: dobbiamo certo cominciare, vi dicevo, la famosa fase 2, guardare a medio-lungo termine, ma sicuramente sarà tutto diverso da una volta, le distanze anche in spiaggia, dice, saranno diverse. A questo proposito vi cito la prima pagina del South China Morning Post, che è il quotidiano di Hong Kong, che è intitolata Socializing Distance, che è un po' un gioco di parole, perché quello che sentiamo spesso dire in inglese è un social distancing, cioè il distanziamento sociale, e qui invece è la distanza per socializzare, perché la foto è stata scattata su una spiaggia di Hong Kong, perché anche lì è bel tempo, ci sono buone, belle temperature molto alte, e quindi le persone, anche se a Hong Kong i contagi aumentano, in una giornata di festa hanno ignorato tutte le precauzioni e appunto c'è stato un socializing distance, cioè una distanza per socializzare che non è certo quella di un metro o due metri come si consiglia negli Stati Uniti. Haaretz, il quotidiano israeliano, ci fa capire che il tema delle morti nelle residenze per anziani non è soltanto italiano, lo abbiamo detto anche ieri, c'è anche in Francia questo problema, c'è in Spagna, c'è negli Stati Uniti, e Haaretz titola che il 33% delle morti per Covid-19 in Israele sono nelle case appunto per anziani. E anche in questo caso Covid-19 testing is too little too late, quindi i test sono troppo pochi e sono arrivati in ritardo. E poi abbiamo visto l'altro giorno le polemiche, ne abbiamo parlato a Effetto Mondo, del ministro del governo Johnson, che ha fatto 40 miglia, quindi circa 60 chilometri, per andare a trovare i suoi genitori, benché anche in quel caso avrebbe dovuto rispettare la distanza, anzi non avrebbe proprio dovuto entrare in contatto con persone per definizione in una categoria a rischio, invece è andato, li ha incontrati. E qui invece in Israele polemiche, perché il Rivlin ha passato Seder, che è il giorno della festività prima di Passover, di Pesach, della Pasqua ebraica, con la figlia, nonostante anche in questo caso ci fossero delle regole, delle restrizioni che avrebbero impedito, anzi hanno impedito alle persone normali, cioè non politici di primo piano, di fare questo tipo di incontri. L'Observer naturalmente titola sui dati britannici, che abbiamo sentito sono i più alti dopo quelli spagnoli e italiani in Europa, oltre 10.000. E poi anche qui, perché questo è un tema purtroppo che riguarda l'Italia, la Francia, riguarda tutti i paesi, ed è quello delle violenze domestiche che stanno crescendo durante questo lockdown. Gli inglesi hanno tutti diritto a chiamarlo lockdown, è una parola inglese, e questo aumento di cui ha parlato ieri il ministro degli interni, che è una donna britannico, che è Privi Patel, è uno dei quelli che viene definiti i costi nascosti della pandemia. Washington Post, anche in questo caso i dati, perché quelli americani hanno superato, le morti appunto hanno superato la cifra di 20.000, e viene sottolineato dal Washington Post, quindi si supera il numero di morti in Italia, che finora era considerato appunto una cifra altissima, e come si vede purtroppo è stata superata negli Stati Uniti. Vi segnalo anche un quotidiano brasiliano, sapete che il presidente brasiliano Jair Bolsonaro continua a non rispettare le distanze, partecipa a comizi, partecipa a eventi, come l'abbiamo visto io qualche giorno fa, l'apertura di un cantiere, e però la Folha de São Paulo, che è un giornale brasiliano, un quotidiano nazionale, avverte: se il governo non agisce ulteriormente, perché alcune misure sono già state messe in atto come un sussidio straordinario, la pandemia potrà addirittura dimezzare il numero di persone che hanno un lavoro in Brasile. C'è una foto tra l'altro di una cattedrale di San Paolo deserta, perché comunque anche lì moltissimi religiosi hanno preferito non celebrare i riti per evitare che le persone si accalchino all'interno dei luoghi di culto. E poi c'è un'altra foto, perché anche in Brasile molte attività sono ferme, ma non la filiera alimentare, perché è una filiera necessaria, e si vede una mensa e ci sono sui tavoli per obbligare a tenere le distanze, ci sono i tavoli con sopra una croce, un nastro che forma una croce per far capire dove non sedersi, e quindi le persone sono tutte distanziate. Poi vi segnalo, per passare ai mensili, poi faremo anche una pausa in cui sentiremo gli aggiornamenti sul meteo, il numero di aprile di Il, e ve lo segnalo per due motivi: è uno dei magazine del Sole 24 Ore, e insieme a How to Spend It, perché ha da questo numero, e che naturalmente avrebbe potuto essere celebrato in altro modo se non fosse intervenuta la pandemia, è una nuova veste grafica, e comunque la copertina, dove ci sono due foglie, si intitola Tornare a crescere, un albero per ripartire, un giornale vivo che cambia, evolve, diventa green, un network internazionale per piantare insieme semi di sviluppo. E poi vi segnalerò un paio di articoli da questo nuovo numero di Il, che in realtà è il 120° numero di Il da quando è nato, ma è appunto il primo con questa nuova veste grafica. Ora ci fermiamo un attimo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon lunedì di Pasqua, grazie a tutti gli ascoltatori già in ascolto a quest'ora e appunto nel lunedì di Pasqua, e grazie a chi manda messaggi al 349-238-6666, all'ascoltatrice che mi chiede in che giornale è l'articolo Should I Wash My Shopping, è su questo settimanale che si chiama New Scientist. Credo che molti di questi articoli siano gratuiti sul sito, quindi se cerca newscientist.co.uk dovrebbe trovare il numero di questa settimana. E vi segnalo, eravamo su Il, e quindi vi segnalo questa, insomma, naturalmente è tutto condizionato dal Covid, ma per esempio questo articolo di Emma Desai, che ci racconta questo Museum of Underwater Art, che è la prima installazione d'arte subacquea dell'emisfero australiano, è pronto, ma naturalmente si potrà visitare solo quando l'emergenza coronavirus terminerà. Pensate, appunto, un museo subacqueo. E tra l'altro ricordiamolo, tra non tanti giorni, insomma il 22 di aprile sarà la 50ª giornata mondiale della Terra, all'interno di una settimana dedicata appunto al pianeta, e quindi un approfondimento: pensare al pianeta per pensare al futuro. E poi un approfondimento di Carlo Marroni, che avete sentito anche nel GR, il vaticanista del Sole 24 Ore, Francesco Revolution, il pensiero economico di Bergoglio è uno dei tratti rilevanti del suo pontificato. Il Papa utilizza il linguaggio dell'etica e della solidarietà, e l'ha fatto anche in questi giorni con i discorsi per le festività pasquali. E poi un articolo che mi ha molto incuriosita, di Marco Rossari, Old in Translation, quindi non Lost in Translation, che oltre ad essere il titolo di un film è un'espressione inglese appunto per dire come alcune cose vadano perdute quando si traduce, perché due lingue non sono mai una esattamente uguale all'altra, quindi sta nell'abilità del traduttore cercare di rendere in una lingua diversa le stesse sensazioni, emozioni e senso di quella originale. E a volte capita anche che, siccome le lingue sono animali vivi che evolvono, bisogna ritradurre alcuni libri perché hanno la traduzione originale, ha perso un po', stona, perché naturalmente è in una lingua che non riconosciamo più. E quindi Marco Rossari racconta su Hill: le versioni in altre lingue dei grandi autori invecchiano, gli originali no. Per questo sto ritraducendo e rincorro uno scrittore lepre che è nascosto alle mie spalle, che in questo caso è George Orwell. E poi, sempre in edicola, a proposito di periodici, 24 Hours, che è un trimestrale, per questo ho detto prima, i magazine sono Il e How to Spend It, ma invece poi c'è 24 Hours, che è tutto dedicato agli orologi, per appunto gli appassionati di orologi. In copertina c'è un Luminor, che è uno degli orologi più famosi di Panerai, che è un marchio nato a Firenze, ora parte del gruppo Richemont, e poi all'interno tante notizie, anche qui con gli aggiornamenti legati alla pandemia, perché ad aprile avrebbero dovuto tenersi due grandi fiere dell'orologeria a Ginevra, tra l'altro per la prima volta spostate in aprile, e poi naturalmente Basilea, sono saltate entrambe, slittate al 2021. Internazionale di questa settimana, la copertina è dedicata a un articolo che poi c'è all'interno di Arundhati Roy, la scrittrice britannica, L'altra pandemia, che ci racconta: nei paesi più poveri il coronavirus provocherà una catastrofe, se non possiamo impedirla dobbiamo almeno immaginare un futuro diverso. E a proposito di futuro diverso e di problemi economici della pandemia e in generale del welfare state, abbiamo visto ieri e quindi anche delle disparità sociali, abbiamo visto ieri l'articolo su Avvenire dove si spiegava che negli Stati Uniti, per esempio, il coronavirus sta facendo molte più vittime tra le minoranze come gli afroamericani, i latinos, i nativi americani. Ieri ho sentito la governatrice del New Mexico, democratica, tra l'altro il suo nome si fa anche nella lista dei possibili papabili di un candidato vicepresidente per Mike Pence, che parlava dei molti nativi americani nelle riserve che ci sono in New Mexico. Molti di questi vivono in luoghi dove non hanno l'acqua corrente, quindi immaginatevi questo mantra di lavarci tutti le mani per parecchi minuti, come non si può fare se non c'è l'acqua corrente. Quindi, per dire come il Covid, è vero, questo virus, abbiamo visto, ha colpito il premier britannico Boris Johnson, ha colpito il principe Carlo, quindi in teoria non fa differenze, però poi le differenze ci sono nell'accesso alla cura o anche nel semplice accesso alle informazioni e alle precauzioni che si possono prendere. E quindi Financial Times, che sicuramente non è Arundhati Roy, è da sempre una scrittrice che cerca di difendere le minoranze, magari qualcuno potrebbe definirla insomma una no global, ma Financial Times non è questo, è il quotidiano di Londra, il quotidiano finanziario per eccellenza. Ha pubblicato questo articolo che, ripeto, trovate su Internazionale: la pandemia ha rivelato la fragilità del contratto sociale. Bisognerà mettere sul tavolo riforme radicali, invertendo la tendenza che ha prevalso negli ultimi 40 anni. I governi dovranno accettare di svolgere un ruolo più attivo nell'economia e considerare i servizi pubblici come un investimento. E poi in realtà sono due pagine, però normalmente è una pagina la rubrica di Slavoj Žižek, che è un filosofo e studioso di psicoanalisi sloveno, e in questo articolo su Internazionale di questa settimana ci racconta il modo giusto di vivere l'isolamento. Tutto quello che potrebbe funzionare per evitare un crollo psicologico è consentito. I suoi consigli sono: non fare progetti a lungo termine, pensare a oggi, a quello che farai fino all'ora di andare a letto. E poi questo sì davvero lungo, è un reportage di John Lee Anderson, tradotto dal New Yorker, molte pagine perché questo sono i veri reportage, e sempre quelli di John Lee Anderson, che è uno dei più importanti e anche rispettati giornalisti esperti di Sud America, e qui ci racconta la Bolivia. Dopo 14 anni al potere, Evo Morales è stato accusato di brogli, sapete, ha lasciato il suo paese, la Bolivia, per qualcuno ha voluto sottrarsi alla giustizia, per altri è la vittima di un colpo di Stato. Quindi, per chi è interessato alla vicenda della Bolivia, questo bellissimo reportage di John Lee Anderson. E invece una curiosa, magari si comincerà, abbiamo parlato prima di fare scommesse su discipline un po' anomale che non hanno subito l'interruzione da pandemia. Questo articolo, tradotto dalla Zeit, che è un settimanale tedesco, si intitola A bersaglio ed è la storia di Fallon Sherrock, che è una campionessa britannica di freccette, uno sport che fino a poco tempo fa era riservato agli uomini. Ora non solo gioca con loro, ma contro di loro, ma li batte, ed è diventata una beniamina dei tifosi. È una ragazza che è nata nel 1994. È in edicola anche il numero di aprile di Internazionale Kids, che è arrivato al settimo numero. È una versione, appunto, come dice il titolo, in teoria per bambini di Internazionale, traduce articoli da riviste o pubblicazioni che sono a loro volta pensate per Internazionale, per esempio Dein Spiegel, che è la versione di Spiegel, il settimanale tedesco per i bambini, oppure Le Petit Libé, che è sempre la versione appunto di Liberation per i bambini, o il New York Times for Kids. Ma ci sono anche qui tradotti degli articoli da giornali che non nascono per essere pubblicazioni, che non nascono per essere indirizzate a un pubblico di bambini, per esempio Quartz, che è un bellissimo giornale online che si occupa di economia. E allora da questa edizione vi segnalo, appunto tradotto da Dein Spiegel, questo articolo che si intitola Soccorso in spiaggia. Credo che questa sia una lettura fantastica per questi giorni di lockdown, in cui magari ci si trova in casa con appunto bambini o adolescenti o preadolescenti. In questo articolo si racconta come a volte nel mare del nord i cuccioli di foca si perdono durante le tempeste e si ritrovano da soli in spiaggia, e questo articolo racconta la storia della veterinaria che li aiuta, che è pronta ad aiutarli. Un altro articolo che vi segnalo, questo appunto tradotto da Quartz, I nonni su TikTok, e racconta come appunto le persone, insomma, che hanno appunto dei nipoti, possono anche essere dei nonni relativamente giovani, comunque spiega come si intitolava originariamente Teenagers are using TikTok to bond with their grandparents, cioè gli adolescenti usano TikTok, questo social network che permette di pubblicare video molto brevi, per creare un legame con i loro nonni. L'edizione di aprile del mensile Millennium, che è un mensile che viene allegato al Fatto Quotidiano, dedicato anche in questo caso alla pandemia, la copertina è dedicata a questo: come guariremo dal virus. Ma è molto interessante l'inchiesta che viene fatta in generale sulla sanità italiana. Sapete che la sanità è la prima voce del nostro bilancio, del bilancio dell'Italia, ma di praticamente di qualsiasi paese, persino degli Stati Uniti, pensate, anche se lì non c'è un vero e proprio sistema di sanità pubblica. E approfitto per, chissà se ascolta anche oggi l'ascoltatore che ieri ha detto: ma come, non è vero? Medicaid e Medicare sono l'equivalente del nostro sistema sanitario nazionale? Assolutamente no. Medicare e Medicaid sono due tipi di assicurazioni che sì, vengono garantite a molti lavoratori, ma sono per l'appunto assicurazioni, non rappresentano un sistema sanitario pubblico, perché il sistema sanitario pubblico negli Stati Uniti non esiste. As simple as that. E molti presidenti, già Clinton, poi Hillary Clinton quando apparteneva all'amministrazione Obama, lo stesso Obama, ora i candidati alle presidenziali per il Partito Democratico stanno cercando in qualche modo di introdurre una forma di assistenza pubblica, e vedremo se succederà. In ogni caso, vi dicevo, su questo numero di Millennium: nella sanità uno scandalo ogni 3 giorni, e nell'emergenza pagano i malati. Transparency, che è un'organizzazione indipendente che analizza il livello di corruzione dei vari paesi, chiede appunto che la politica molli la presa sulle nomine. Questo è stato sicuramente un problema in passato, ma lo è ancora, della sanità italiana, che spesso, per esempio, i vari dirigenti degli ospedali sono nominati dalla politica. E questa intervista a David Del Monte, che è appunto di Transparency, direttore per l'Italia di Transparency, che dice: ora tutti dicono viva la sanità pubblica, ma spezziamo il legame tra politici e manager. L'Espresso, che è il settimanale che ogni domenica è in edicola con Repubblica, l'abbiamo citato anche ieri, copertina c'è scritto Il Passaggio, un lungo articolo di Marco da Milano. Sapete che la Pasqua ebraica, questo significa passaggio, passaggio del Mar Rosso, ma anche passaggio da una condizione di schiavitù a una condizione di libertà, deserto, esilio, ma anche cambiamento e speranza radicale. Tra silenzio e attesa di una fase nuova nella lotta al virus, la Pasqua 2020 è anche il ritorno di una grande dimenticata, la ricerca di senso. E ora noi però ci fermiamo un attimo per una pausa sul traffico. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi. E puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. In primo piano. Ancora buongiorno e buon lunedì di Pasqua da Giulia Crivelli. Incredibile non soltanto che siate in così tanti ad ascoltare già a quest'ora in un giorno festivo, così tanti a mandare messaggi al 349-238-6666, ma anche così attenti. All'ascoltatore che chiede, può ripetere il numero della rivista Quartz? Non è scritto Quartz, ma è scritto proprio Quartz, cioè Q-U-A-R-T-Z, come quarzo in inglese. Trova tutto online, ci si può iscrivere anche alla newsletter e ogni giorno si riceve questa newsletter con notizie appunto molto curiose. All'ascoltatore che dice in effetti paragonare il numero dei morti totali americani a quello italiano, bisognerebbe sempre ricordare che gli Stati Uniti hanno una popolazione 5 volte superiore a quella italiana. È vero, fanno comunque molto effetto questi 2.000 morti al giorno o 20.000 in totale, che purtroppo sono destinati a crescere. E all'ascoltatore che dice: ma il giaguaro, riferendosi al giaguaro sulla copertina dell'Economist, non dovrebbe essere monocolore? Non lo so, io mi ricordo sempre la battuta di Bersani di smacchiare il giaguaro, non so, immaginiamocelo con queste macchie. È soltanto un'immagine per rendere l'idea appunto di un animale così potente e forse addirittura un predatore che non ha nemici e che però adesso ha le sue macchiette col coronavirus, quindi è solo un'immagine, prendiamola per quello che è. A proposito degli ascoltatori che naturalmente ricordano tutti gli scandali degli ultimi anni nella sanità, sempre sull'Espresso, i furbetti del coronavirus. E ha ragione anche l'ascoltatrice che dice: stigmatizzare queste persone che violano le restrizioni senza chiamarli furbetti. Sono perfettamente d'accordo, furbetto è una parola che proprio non mi piace, perché la furbizia può essere una cosa simpatica, ma se il furbetto è quello che, come abbiamo visto nei giorni scorsi, addirittura aveva già partecipato a un appalto per le mascherine intascandosi non so quanti milioni di euro, altro che furbetto, criminale, punto e basta. Criminale 2 volte, primo perché appunto viola la legge, ma poi perché, come sappiamo, in questa battaglia per il coronavirus, se qualcuno viola la legge fa del male a tutti, e viceversa se la rispettiamo ci aiutiamo a vicenda a uscire prima da questo tunnel. Interessante sempre sull'Espresso una crisi dimenticata, quella di Taranto. delle acciaierie, dell'ex Ilva, a Taranto non cambia niente. Susanna Turco ci racconta: prima la salute, poi la produzione, ha ripetuto il governo. Ma nella città dell'Ilva per anni è stato detto l'opposto e l'alternativa continua a essere o muori di cancro o di fame. Viaggio nei quartieri abituati a vivere con l'incertezza. E poi vi segnalo un bellissimo colloquio di Vlodek Goldkorn, che è un giornalista che spesso si occupa di cultura sull'Espresso, con Richard Sennett, che è un sociologo che però ha sempre scritto dei libri molto interessanti anche sul valore, per esempio, dell'artigianato, del lavoro manuale. E quindi in questo colloquio racconta anche lui la sua esperienza di questa pandemia e dice: ho l'impressione di trovarmi in mezzo a un esperimento sociale terribile. Vedremo un notevole aumento delle disuguaglianze. Quindi non è, direi proprio di no, particolarmente ottimista. Panorama, il magazine che è in edicola con Libero perché è stato acquistato dall'editore di Libero, della Verità di Maurizio Belpietro, perdono, ma spesso insomma Belpietro ha cambiato testate, io ogni tanto ancora faccio confusione. È il fondatore, l'editore della Verità, che ha comprato di recente Panorama e in questo numero, che è l'ultimo numero in edicola, ha un approfondimento sugli anziani. E su questo approfondimento approfitto per rispondere anche all'ascoltatrice che dice: ci parli meglio dell'intervista di Ursula von der Leyen alla Bild. Io non l'ho sotto mano, però domani va in onda regolarmente Effetto Giorno e quindi anche all'interno Effetto Mondo, le prometto di controllare che definizione abbia dato Ursula von der Leyen di anziani, cioè se over 65 o over 70, perché come avete sentito nel GR la Presidente della Commissione Europea ha detto che se i dati non migliorassero si potrebbe pensare a tenere gli anziani in casa fino a tutto il 2020. Ma invece su Panorama questa inchiesta: anziani ora così fragili, sempre così necessari. Dall'inizio dell'epidemia sono i più a rischio, soprattutto se vivono in strutture assistenziali. Eppure coloro che hanno oltre 65 anni, che è ancora la definizione di anziano più usata in Italia, anche se l'età media naturalmente e anche le aspettative di vita sono molto aumentate, quindi forse bisognerebbe modificare questa soglia, comunque rappresentano un quarto della popolazione italiana. Oggi come non mai sono cruciali per la tenuta economica del paese. E poi vi segnalo, ho tenuto da parte insomma tanti settimanali, un articolo uscito su 7 qualche tempo fa e di Sara Gandolfi, che fa un focus sul Mozambico. Abbiamo visto la copertina di Internazionale con Arundhati Roy che esprime tutte le sue preoccupazioni per l'impatto che il virus potrebbe avere in alcuni paesi più poveri del pianeta, per esempio alcuni paesi africani. E qui c'è un focus sul Mozambico, che tra l'altro era un paese che aveva iniziato una interessante ripresa economica dopo i disastri legati al meteo impazzito dello scorso anno. Naturalmente adesso potrebbe esserci un effetto anche sul Mozambico di questa pandemia. A proposito di ambiente, sulla copertina di D, la storia di Ellen MacArthur, che è anche la donna che detiene il record mondiale di circumnavigazione a vela in solitaria ed è diventata anche a 43 anni una leader ambientalista, visto che abbiamo detto 22 di aprile, giornata mondiale dell'ambiente. Molto interessante su Io Donna questo lungo approfondimento sulla cosiddetta generazione Z, cioè gli under 26, perché stanno vivendo naturalmente anche loro questa quarantena, hanno delle aspettative per il loro futuro che sono sicuramente diverse da quelle dei ventenni di qualche decennio fa, delle mie per esempio, sicuramente hanno molta consapevolezza ambientale e secondo questo quadro, che però sapete è sempre difficile già definire una generazione e poi fare delle generalizzazioni, però insomma è una generazione Z, appunto, che sono i ragazzi nati dal 1995 a oggi. Uno si chiede perché questa data, però prendiamo per buono questa definizione. Cristina Laclava ci racconta: non sono arrabbiati con noi adulti, anche se stiamo lasciando loro un mondo inquinato, mostrano di essere consapevoli e pragmatici, e qui appunto viene raccontata questa ricerca fatta dall'Istituto Eumetra, che dice: sostenibili, inclusivi, ugualitari e con idee precise sul lavoro. Si dice spesso che molti di questi ragazzi, questa generazione che si affaccia, i più vecchi tra virgolette di loro, al mondo del lavoro, chiedono nei colloqui di lavoro già quali sono gli orari, più ancora che la retribuzione, perché tengono molto all'equilibrio vita lavorativa, vita personale. A proposito di interpretazione di quello che ci sta succedendo, sul domenicale, il supplemento domenicale, ieri abbiamo citato alcuni articoli ma inevitabilmente non siamo riusciti a citarli tutti, uno di Vincenzo Barone che racconta gli effetti della pandemia, vivere senza più l'orologio. È in atto un gigantesco esperimento di rallentamento del tempo, ma anche dei numeri. Ora le nuove lancette stanno seguendo l'andamento del virus. E poi di Gianfranco Ravasi citiamo sempre il breviario, però ogni settimana comunque nella sezione Religioni e Società Gianfranco Ravasi pubblica un altro articolo, e ieri si intitolava Grandi domande sull'aldilà, e mettendo insieme alcuni libri appunto ci raccontava Monsignor Gianfranco Ravasi: religiosi e laici si interrogano su che cosa ci sia dopo l'esperienza terrena. Per i cristiani sarà un abbraccio tra l'umanità mortale e la divina eternità. Per invece chi appunto non crede è molto diverso. E poi, sempre a proposito di, diciamo, pensiero laterale sulla pandemia, un articolo di Fulvio Erace che racconta come nel 1960 Buckminster Fuller ideò una cupola sopra New York come tutela dai rischi atomici, si era appunto in pieno era da guerra fredda e dall'inquinamento, e ancora non si pensava ai virus, e chissà se qualcuno oggi potrebbe riprendere quell'idea. E poi una bellissima recensione di Franco Cardini a questo libro di Alessandro Vanoli che si intitola Primavera, la stagione inquieta, la mezza stagione che invidia. Alessandro Vanoli dedica la seconda puntata della sua tetralogia al periodo più sfuggente dell'anno, in bilico tra il gelo dell'inverno e il caldo dell'estate, e celebra così il risveglio aspro e misterioso della natura. E ultimo segnalazione che riesco a farvi da tutto Libri della Stampa, questo articolo pubblicato da Nottetempo di Baptiste Morisot sulla pista animale. Ci pensiamo esseri superiori, poi arriva l'orso e ci ricorda che siamo carne da mangiare. E certo, se non avessimo insomma armi per difenderci assolutamente impari contro le creature come gli orsi, per noi l'orso sarebbe un predatore. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon lunedì di Pasqua da Giulia Crivelli, per chi vorrà ci sentiamo domani all'interno di Effetto Giorno con Effetto Mondo.